Poiché i cristiani oggi sono a più stretto contatto con persone di altre fedi, essi sono chiamati ad esaminare e a spiegare il significato delle affermazioni dei loro credi, soprattutto quando sostengono che la salvezza dalla perdizione eterna si ottiene solo in Gesù Cristo. E questo perché nelle ultime decadi è stata tra i teologi una tendenza che ha mirato a rendere popolare un nuovo modo di parlare di Cristo, tendenza che evita lo scandalo e l'imbarazzo della sua unicità quale unica via, unica verità, unica vita per accedere alla vita eterna. Per affrontare un tema del genere, occorre partire dal presupposto che tutti gli uomini di ogni razza e lingua sono uguali davanti a Dio. E colui che porta il messaggio esclusivo di Cristo non è intollerante verso le altre religioni. Non dobbiamo però confondere la tolleranza nei confronti delle persone con le quali siamo in disaccordo, con la tolleranza per le loro idee. Affermare che tutti gli esseri umani sono uguali, di ugual valore, non significa che qualunque cosa dicano e credono sia ugualmente vero e valido. La tolleranza nei confronti delle persone non equivale a pensare che chiunque abbia ragione o cammini nella verità. Così è evidente che se Gesù Cristo, il suo insegnamento e la sola verità, significa che chi non conosce il Figlio di Dio e il suo messaggio, o chi non si adegua al comportamento etico del Vangelo di Cristo, si trovi nell'errore. Una simile conclusione esclusivistica viene rigettata da molti perché si pensa che in fondo Dio, e non si sa quale Dio, salverà anche chi in buona fede ha osservato scrupolosamente la propria religione. Nulla di nuovo sotto il sole, perché anche se sono cambiati i termini per definire certe filosofie, l'inclusivismo, il pluralismo, il sincretismo, l'universalismo e il relativismo sono sempre esistiti nei cuori degli uomini. L'inclusivismo è ritenere vera la propria fede e il messaggio di Cristo migliora i suoi aspetti deficienti o distorti. Il pluralismo ritiene valide tutte le religioni e il cristianesimo è tra le altre strade valide. Il sincretismo è unire e mescolare. In una fede composta è ancora da venire il meglio di tutte le religioni mondiali. L'universalismo è ritenere che Dio alla fine, indipendentemente da ciò che si è creduto e vissuto, salverà tutti. Il relativismo ritiene che nessuna fede possa avere la pretesa di assolutezza. Simili pensieri umani cozzano inesorabilmente contro il messaggio esclusivista del Vangelo. Se Gesù non è il solo Signore, la sola via, la sola verità, la sola vita, allora l'intera fede cristiana e i secoli di culto rivolto a Gesù sono stati una mostruosa idolatria. La pretesa assolutistica del cristianesimo di presentare Cristo Gesù come la sola ed unica verità non solo sfugge all'accusa di arroganza e di imperialismo religioso, ma genera tutta una serie di domande alle quali il credente in Cristo non può sfuggire. Se solo Gesù è la verità, se la salvezza può essere trovata e ottenuta solo in e per mezzo di Cristo coloro che appartengono ad altre fedi o che non hanno mai avuto la possibilità di conoscere Gesù quale Figlio di Dio, saranno salvati? Una simile domanda presuppone che nel cuore degli uomini ci sia la consapevolezza dell'indegnità di poter accedere alla presenza della propria divinità, perciò le risposte hanno tutte un contenuto che fa appello ai meriti dell'uomo. Per alcuni questi meriti riposano nella capacità intrinseca dell'uomo di operare bene, per altri nell'appartenere ad una religione. Poiché nessuno è perfetto e capace di osservare tutta la legge, la prima ipotesi è da scartare, mentre riguardo al fatto di appartenere ad una religione la risposta è più articolata, non perché sia più difficile rispondere, ma per il fatto che ogni persona religiosa è profondamente convinta che la propria fede sia quella giusta, o la sola ad essere giusta, è così per i seguaci dell'Islam o del cattolicesimo. La prima risposta da dare è che la religione non ha mai salvato nessuno. E lo dimostra il fatto che benché gli ebrei avessero una religione totalitaria ed estremista che affermava la salvezza mediante la fede solo in Yahweh Hach, il loro Dio, la maggioranza di essi non furono salvati. Se la religione ebraica potesse salvare tutti gli ebrei, sarebbero stati salvati. Ma nessuno ha mai parlato di perduti in seno all'ebraismo quanto Gesù. Così vale anche per coloro che professano una fede in Cristo, essi non saranno salvati per mezzo della loro religione, sia questa cattolica, protestante o ortodossa, ma unicamente per grazia e per l'opera unica e sostitutoria di Cristo Gesù. Il cristianesimo, visto come religione nel senso di legame con il Creatore, è la risposta riconoscente che un salvato dà a Dio offrendo il proprio corpo in sacrificio, vivente come un culto spirituale. Romani 12, 1. Questo atteggiamento di vita esclude assolutamente l'idea che il cristianesimo possa essere un mezzo di salvezza, sia per mezzo di una vita santa, sia per appartenenza. Se il cristianesimo, che è la rivelazione del vero ed unico Dio, non può salvare, quanto più le altre religioni che condividono solo un barlume di verità. Se la religione, compresa quella cristiana, non salva, quanto più colui che non ha mai udito parlare di Cristo può essere salvato. Però questa conclusione per certuni crea alcuni problemi morali, perché è inaccettabile e immorale che solo alcuni siano privilegiati nell'udire l'Evangelo e solo chi pone fede in Cristo sia salvato. Dio dovrebbe essere più democratico nel dare la stessa possibilità di conoscenza a tutti. Questo desiderio apparentemente ricoperto di santa giustizia nasconde una insidia maligna. Innanzitutto non esiste una uguaglianza nel senso assoluto, perché se così fosse, dovremmo essere tutti uguali, tutti dovremmo avere lo stesso aspetto fisico, tutti dovremmo avere la stessa intelligenza, stesse possibilità economiche, ma se c'è, è una cosa universalmente riconosciuta e accettata, sono proprio le differenze. La pretesa dell'uguaglianza è dunque un'utopia diabolica. Inoltre, la verità più certa esistente è che nessuno sarà condannato per caso o perché non ha udito l'Evangelo del messaggio di Cristo morto e risorto per i peccatori. Se fosse così, che dire allora di coloro che hanno vissuto prima della venuta di Cristo? Se la salvezza si ottiene solo mediante un atto di fede nell'opera salvifica di Cristo, se solo Cristo salva, cosa pensare allora dei miliardi di persone che sono vissute prima di Cristo e quelle che al giorno d'oggi non sono raggiunte dal messaggio del Vangelo che concerne il Figlio di Dio? Se vanno in cielo solo coloro che odono l'Evangelo, sembra che Dio non voglia o non possa salvare nessuno fino a quando qualcuno non lo raggiunge con la predicazione del Vangelo al quale egli risponde adeguatamente. Le cose non stanno esattamente così, anche se è vero che nessuno sarà salvato se non tramite l'opera di riconciliazione di Cristo e un atto di fede in Lui. L'Apostolo Giovanni lo dice molto chiaramente nel suo Evangelo. Parlando del Consolatore, cioè della persona dello Spirito Santo, egli disse: «E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato? Perché non credono in me». Questa asserzione di Giovanni è la più grande speranza che possa esserci. Ma nello stesso tempo può produrre, se non è capita, la più grande angoscia. Se il peccato consiste nel non credere in Gesù, allora tutti quelli che non lo hanno conosciuto sono irrimediabilmente perduti. Se invece sono salvati anche senza conoscere Cristo Gesù, allora il cristianesimo non è più totalitario e il numero dei salvati alla fine non sarà identico al numero di coloro che hanno ascoltato e hanno risposto al Vangelo. Se così fosse, il cristianesimo sarebbe una bufala cosmica. Molto spesso si hanno delle problematiche in merito alla fede cristiana per ignoranza o perché si ragiona con dei presupposti comuni. Per molti il Dio dell'Antico Testamento è il Padre di Gesù Cristo e per questo i credenti che sono vissuti prima dell'incarnazione del Figlio di Dio non avrebbero posto fede in Cristo Gesù. Ma una sana teologia confermata da Gesù e dagli Apostoli vede nella divinità dell'Antico Testamento il Cristo, nominato circa 6.000 volte con il nome di Yah-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Così i credenti dell'Antico Patto, anche se non lo sapevano, ponevano fede in Cristo. È evidente che la loro fede non possedeva la conoscenza neotestamentaria, ma la salvezza non si ottiene per la quantità di fede, ma per la qualità. Così Abele, Abramo, Mosè e Davide, tanto per citarne alcuni, furono salvati esattamente come sono salvati i credenti di oggi, e cioè mediante un atto di fede in Cristo. Nello stesso modo, i pagani e coloro che non hanno conosciuto il messaggio degli apostoli sono e saranno salvati mediante un atto di fede in ciò che Cristo ha fatto rivelatosi nella creazione. E poiché il creatore di tutte le cose è ed è stato Cristo, chi pone fede nelle sue opere, pone fede nel Figlio di Dio. Questo è in armonia con la professione di fede del cristianesimo che vede una sola fede tramandata una volta per sempre ai santi. Molti interrogativi in merito alla salvezza sorgono perché si pensa che i credenti dell'antico patto ponessero fede nel Padre di Gesù, definito comunemente Padre Eterno, mentre la rivelazione neotestamentaria è che Yahweh Yehcha, cioè la divinità che si è manifestata al popolo di Israele, ha assunto un corpo e ha rivelato il Padre e la Trinità. Per questo i cristiani sostengono con forza che la salvezza è solo in Cristo e mediante un atto di fede in Lui, e solo in Lui. Questo messaggio radicale contrasta con chi crede che la salvezza avvenga mediante un atto di fede in Dio, sia che si riferisca al Dio dei cristiani, sia che si riferisca a un Dio vago e impersonale, perché Gesù ha detto espressamente a coloro che già avevano la vera religione, la fede nel vero Dio, cioè agli ebrei, se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Gesù pretendeva e pretende di essere riconosciuto quale unica divinità dell'Antico e Nuovo Testamento. Non è questa una parola rivolta a tutti coloro che credono in un Supremo e in un Altissimo, o solamente in Dio. La conclusione è questa: perché dovremmo credere che la fede, in un'astrazione impersonale e indefinibile, abbia delle credenziali migliori per essere il centro dell'universo religioso, di una persona conosciuta che si è rivelata nella storia e di cui esiste una narrazione, e cioè Gesù Cristo? La divinità dei cristiani non è un nome impersonale come Allah o Geova, che i fedeli ritengono un essere non conoscibile, immateriale, indefinibile, ma i cristiani pongono la loro fede in Gesù di Nazareth, l'uomo Dio vissuto 2000 anni fa. Questo fa del cristianesimo una religione unica in tutti i sensi, religione che si permette di sostenere cocciutamente che solo in Gesù vi è salvezza e chi pone fede in Lui quale unico Dio ha il perdono di tutti i peccati, cioè la salvezza eterna. Un esclusivismo che salva o la salvezza non esiste, né per il religioso, né per chi non conosce l'Evangelo. Settembre 2005, Ellero,